Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. E questa settimana siamo tornati qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto per Fuori di noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori, noi e al mondo giovanile. Non sono ovviamente da solo e mi piace tantissimo dire questo perché sono sempre insieme con la mia nuova compagna di viaggio. Questa è la terza puntata, terza settimana che mi sopporta, Anna Zampieri. Ciao Anna. Buongiorno a tutti, ciao Cristian. Anna, allora, questo viaggio l'abbiamo adesso, lo stiamo sostenendo, la prima puntata l'abbiamo dedicata un po' alla rassegna teatrale di cui poi parleremo raccontando un po', diciamo, anche il programma di questa iniziativa che propone Noi Treviso, compagnie teatrali amatoriali nate all'interno degli oratori che si stanno un po', diciamo, esibendo al Teatro Comunale Elios Andò di Scorzè. È partita, diciamo, il 21 gennaio e terminerà il 18 marzo, ma poi magari ricorderemo. Abbiamo incontrato la responsabile della compagnia Se non vedono credo di Gaggio di Marcon. La settimana scorsa abbiamo invece avuto ospiti due rappresentanti, due responsabili, due consiglieri dell'oratorio di Noi Venezia, di Favaro Veneto, Papa Giovanni Paolo I, che hanno un po' cercato di raccontare la loro esperienza di volontari, di responsabili, di attività. Quindi stai un po' conoscendo il mondo noi. Noi vorremmo appunto conoscere con te, e lo conosceremo, diciamo, nelle prossime settimane, anche il mondo ACR, perché Anna ovviamente è una delle responsabili della ACR diocesana, è qui per non soltanto per starmi vicino, ma soprattutto appunto per introdurre, per raccontare appunto questo progetto che partirà appunto fra pochissimo tempo. Tanti gruppi che verranno qui in radio e che racconteranno la loro esperienza. Ma partendo dal teatro, Anna, mi è venuta in mente una cosa. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa, io avevo detto anche Anna ha avuto un'esperienza teatrale. Ho usato il passato, invece dovrei usare il presente, perché anche tu fai teatro in qualche maniera, è vero Anna? Sì, io faccio parte di un gruppo parrocchiale che appunto si chiama il gruppo Musa, e siamo andati in scena con due musical fino adesso. Il primo incentrato sulla vita di Santa Bertilla Boscardin, quindi molto cara sia a Treviso che a Vicenza, e poi attualmente siamo andati in scena con il secondo musical dal titolo Il fuoco era parola, e che praticamente parla della storia di un ragazzo che ha sfidato la Bibbia, e quindi c'è questa scena iniziale in cui lui la brucia e dopo da lì partirà tutta la storia, che è un viaggio che dura una notte, è un viaggio del protagonista, e è un musical che non pretende di dare risposte, però vuole scuotere le persone, porre delle domande e spiegare appunto una delle strade che possono essere percorse, senza però voler dire quale sia. Ognuno deve trovare la propria come il protagonista. L'abbiamo già ricordato tante volte, l'oratorio diventa anche, o meglio il teatro in oratorio diventa anche l'occasione per riunire alcune generazioni, cioè adulti e giovani insieme. Ma per esempio ti faccio una domanda, tu cosa hai trovato nella tua esperienza teatrale? Cioè fare teatro per te cosa ha voluto dire? Cioè cosa ha significato nella tua vita? Beh, è stato sicuramente un bellissimo modo di aggregazione e anche di coinvolgere i giovani nella realtà parrocchiale in un modo diverso, ecco, e nuovo. È un modo per mettersi in gioco e anche per conoscere la vita di Santa Bertilla. È stato importante perché veramente, insomma, capire qual è la storia di questa straordinaria persona, o comunque l'altro musical che stiamo facendo, Il fuoco e la parola, vedere anche quelle, mettere in scena tutte anche le domande, i dubbi, le perplessità che si portano i giovani, la voglia di risposte, ecco, è un modo per sentirsi proprio vicini anche. Quindi a tutti, possiamo i giovani. Dire Anna che fare teatro, diciamo, non è soltanto una prova, diciamo, a livello proprio orale, verbale, così via, ma è anche un cammino interiore, e anche un po' fare silenzio, mettere un po' ordine nella propria vita e poi cercare di esprimere, diciamo, questa storia, che poi vuol dire anche cultura, vuol dire valori, vuol dire ideali, al pubblico che magari è assolutamente digiuno di queste figure, ma anche di queste tematiche, perché da quello che ho sentito sono tematiche appoggiate sui valori e fondamenti, diciamo, della religione cristiana. Certo, anche questo. Sì. Tu che ruolo avevi, Anna? Allora, sul musical di Santa Bertilla ero la narratrice, quindi raccontavo un po' tutta quella che era la storia. Invece su questo ultimo musical, Il fuoco e la parola, sono praticamente una ragazza, faccio parte di un gruppo di ragazzi, ecco, e sono sempre attrice poco ballato, insomma. Quante persone ci sono che fanno parte di questa compagnia, di questa realtà? Una quindicina di giovani, e più ci sono gli educatori, ecco, che ci accompagnano. Entrambe le storie, ci tengo a dirlo, sono state scritte da Don Gabriele Fregonese, che saluto e ringrazio. Benissimo, e quindi ringraziamo anche per l'impegno che ha dedicato, ma soprattutto anche per i risultati, perché penso che dopo un esperimento, un'iniziativa del genere, tutti si sentono, portano a casa qualcosa di bello, si sentono più ricchi, diciamo, dentro. Sì. E questo l'hai dimostrato anche tu, raccontando con questa gioia appunto questa esperienza che tu hai vissuto. Ritorniamo al programma Fuori di Noi, quando va in onda? Allora, Fuori di Noi va in onda il sabato alle 14 su Blu Radio Veneto, e domenica a 12:30. Se per caso qualcuno volesse mandarci un'email o raccontarci un po' un'esperienza che ha vissuto. Sì, allora può scrivere all'indirizzo email fuoridinoi@libero.it, oppure mandare un sms al 320-6146-964. Che da 3 settimane è il numero di cellulare di Anna Zampieri. Questo bisogna dirlo, perché è a scanso di chimici. Quindi se telefonate, mandate un messaggio, potete mandarlo alla trasmissione o direttamente ad Anna, che ovviamente li leggerà e poi cercherà anche di rispondere. Vero Anna? Certamente. Tu hai dimenticato il tuo personale e usi questo adesso nella vita di tutti i giorni. Esatto. Molto bene Anna. Allora la trasmissione Fuori di Noi va in onda appunto perché abbiamo creato questa collaborazione anche tra noi e Azione Cattolica Ragazzi ACR Diocesana. Va in onda appunto perché Blu Radio Veneto ha investito, diciamo, in questo programma per raccontare il variegato mondo degli oratori, ma va in onda anche perché abbiamo il nostro regista Eddie Daici, che ci segue, ci accompagna e ci dà appunto tutte le indicazioni necessarie perché appunto per portare a termine questo viaggio. E questo viaggio, la prima parte di questo viaggio, si conclude sempre con una canzone che dedichiamo appunto a tutti i radioascoltatori e a tutti, diciamo, i responsabili di oratorio volontari che ci stanno ascoltando in questo momento. La canzone è quella di Laura Pausini, che ci canta dal suo ultimissimo album di grande successo, come sempre, Non ho mai smesso. Trovo qui su questo palcoscenico di nuovo io. Mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso di amare te, non ho mai tolto un pensiero a te, non ho mai smesso. Ho cercato la bellezza e l'ho trovata in fondo semplicità. Ho cercato il mio passato perché mi hanno detto che così si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. Si ritorna solo andando via. adesso Laura Pausini ha iniziato con questa appunto sua canzone l'appuntamento settimanale con Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori, al mondo dei circoli, dei patronati, dei comitati territoriali di Treviso. Abbiamo sentito Venezia, Padova, Trieste, Vicenza e insomma stiamo cercando un po' di coprire, diciamo, tutta la realtà oratoriale della nostra regione, Anna. Quindi abbiamo cercato e cerchiamo appunto anche di contattare ospiti e responsabili, ma anche semplicemente frequentatori di questo mondo, e cerchiamo anche di capire che senso ha oggi per esempio l'oratorio di fronte a tante proposte, perché l'oratorio è ancora vincente, perché bisogna anche dirlo, l'ultimo qualche mese fa c'è stata l'assemblea nazionale di Noi Associazione e dagli ultimi 10 anni, gli ultimi anche 5-3 anni, il numero di oratori presenti a livello nazionale che si sono affiliati a Noi Associazione sono in costante aumento. Quindi vuol dire che c'è bisogno all'interno di una comunità, di una parrocchia, di un ambiente dove i ragazzi, gli adulti e anche gli anziani possono trovare il loro, diciamo, possono impegnare il loro tempo libero anche conversando, anche partecipando a dei progetti e essendo praticamente protagonisti anche di questi momenti, diciamo, di spensieratezza, di relax. Quindi importante è il valore appunto del nostro mondo, del mondo degli oratori. Ma allora passiamo subito all'ospite. Questa volta non ce l'abbiamo in studio, ma ce l'abbiamo in linea. Nadia, ci sei? Sono. Ci sei, ecco, abbiamo in linea con noi Nadia Martinello, una delle responsabili dell'oratorio di San Liberale. Sì. Nadia, allora sappiamo che sei impegnata in mille faccende, quindi ti rubiamo solo qualche minuto. È vero innanzitutto che sei impegnata o no? Sì, molto impegnata. Ecco, no, perché il regista ci dice, guarda che Nadia c'è, però è impegnata, bisogna essere anche abbastanza rapidi, quindi cercheremo di condensare le domande, tu cerca però anche di risponderci, non con un sì e con un no, mi raccomando. Va bene, farò del mio meglio. Allora Nadia, un po' sorprendente la vostra esperienza, la vostra iniziativa, la sentiamo, diciamo, abbiamo sentito che questo progetto, che stiamo parlando del Green, Anna, sai cos'è il Green? No, vorrei saperlo, cioè mi hai accennato prima qualcosa che è il Grest invernale, però vorrei scoprire meglio di che iniziativa si tratta. Allora, innanzitutto ci collochiamo dal punto di vista territoriale, stiamo parlando di una realtà che vive, che nasce all'interno della parrocchia, delle parrocchie, perché adesso si parla di unità pastorale, San Paolo e San Liberale di Treviso. Nadia, che cos'è il Green? Spiegalo in poco tempo. Allora, sarò breve. È un'iniziativa. Punto, a posto, grazie, ciao bene, Nadia. Ciao, no. Arrivederci. È un'iniziativa che è scaturita dalla mente contorta di alcune mamme che si prendono... Tu ne fai parte ovviamente. Sì, esatto, si prendono a cuore soprattutto il tempo dei nostri ragazzi, perché bisogna dare anche un tempo di qualità, e che ha pensato per la prima volta quest'inverno di dedicare 4 giorni delle vacanze all'organizzazione di laboratori, giochi, un po' come il Grest estivo, solo che ovviamente con una cornice natalizia. E quindi abbiamo prima di tutto reclutato mamme e poi soprattutto animatori, che come sempre hanno risposto in maniera egregia. E quindi prima per la preparazione, quindi del salone addobbato con fondali di stelle e alberi di Natale, e soprattutto giochi, ma laboratori sempre improntati ovviamente sul Natale, quindi bambini piccoli e bambini grandi che si cimentavano a fare questi lavori. E 3 giorni così, quindi con l'accoglienza, la preghiera, l'angolo del racconto, quindi una storia comunque a tema che poi aveva un significato che loro dovevano scoprire, laboratorio, merenda, balli e poi tutti a casa. Come sempre non ne volevano sapere di andarsene, e l'ultimo giorno gita che però quest'anno non era ovviamente appesa ai rami di un non era l'acropark, esatto, diciamo, non era okay. L'acropark, per qualcuno, se non lo sa, l'acropark dov'è, Nadia? Dove siete stati? Sono due, uno è a Roana e uno è a Trento, e sono ambedue molto belli, perché sono io bellissimi, sì. Tu ci sei stata, io li ho visti tramite internet, ma poi ho sentito tanti oratori che ci sono stati e hanno detto che è un'esperienza bellissima. Quindi stiamo già offrendo le prossime gite dei prossimi Grest che ci stanno magari ascoltando adesso. Sì, devo dire che l'abbiamo scoperto noi e poi ve l'abbiamo passato. E quindi... Voi sapete, stiamo parlando con una persona adesso che è un po' orgogliosa di questa realtà di Grest, che è quella di San Paolo e San Liberale, perché c'è tanto anche impegno, ma anche tanti bei risultati. Sì, e quindi abbiamo portati in gita a vedere i presepi. Sì, ed è stata una bellissima esperienza, si sono divertiti, ma nello stesso tempo anche molto, è stata, come dire, una cosa nuova. Quindi soprattutto quello degli Scalabrini a Bassano, sì, e che poi è molto... È un presepio biblico, si chiama così. Esattamente. Sono stato poco tempo fa a vederlo, molto bello. Sì, poi siamo passati dal nostro ex parroco, Don Zago Paolo, che ci ha accolto a Caerano di San Marco. Ah, quello all'aperto. Esatto, quello all'aperto. Molto bello. Lì abbiamo anche pranzato, perché con quell'oratorio bellissimo che ci ha dato ospitalità. E salutiamo, permettimi un attimo di fermarti, e salutiamo anche Don Paolo Zago, perché non so, Anna Zampieri qui della CR diocesana sta un po' scoprendo a Nadia il nostro mondo. Tu lo conosci da parecchio tempo, perché ci vivi, operi, lavori eccetera, ma tu non lo sai, ma Don Paolo Zago è stato per tantissimi anni, prima di Don Bernardo Marconato, presidente del Noi Territoriale dell'ANSPI, ma anche del poi è diventato nel 2002 Noi. Quindi lo ringraziamo e lo salutiamo adesso, appunto, come diceva Nadia, prima era parroco di San Paolo e adesso è andato appunto ad essere, è diventato nominato parroco di Caerano San Marco da qualche anno. Esatto. E poi l'ultimo, Caonada, e grande rientro e tutti felici. Grande tutti festa. A casa. Ma l'Anna ha bisogno di numeri, sai, vero Anna? Cosa vuoi chiedere alla Nadia? Io vorrei sapere quanti bambini e quanti animatori coinvolge questa iniziativa. Allora, è stata una cosa partita un po' in sordina, e come iscritti bambini sono stati circa 25, suddivisi tra le parrocchie di San Paolo e San Liberale. La risposta degli animatori è stata praticamente di 20 animatori, quindi avevamo tanti ragazzi disposti a star dietro a questi bambini. Ovviamente i locali non sono molto grandi della parrocchia di San Liberale, nel senso che c'erano due stanze per i laboratori e un salone molto grande poi invece per i giochi, però il numero secondo me era giusto, potevano starci anche altri bambini, però essendo al chiuso e non all'aperto come il Grest, che poi anche se sono tanti stanno fuori e corrono all'aria aperta. All'aria fresca del mese, esatto. Certo. Sì, questa siete stati fortunati, perché in questo inverno non ha, cioè queste vacanze di Natale non ha nevicato, quindi era un buon, esatto, un buon periodo, sì. Esatto. Però ecco, sì, questi erano i nostri numeri. So che ci sono anche altre parrocchie che lo fanno, sì, e sì, hanno avuto dei numeri anche un po' più elevati sicuramente. Però per noi questo era già un successo, innanzitutto che venissero i ragazzi. E qualcuno la sera ha detto: quasi meglio il Grimv che il Grest. Ah, mamma mia, quindi vuol dire che c'è stato qualche ingrediente che avete inserito nel Green, sì, che dovete sicuramente esportare nel periodo estivo. Nadia, sì, ti faccio una domanda un po' a bruciapelo, ma ti chiedo, queste persone, questi bambini, 25 bambini animatori, ma soprattutto i bambini, dietro i bambini ci sono le famiglie, secondo te il Green, questa esperienza breve, questo piccolo, diciamo, Grest, chiamiamolo, se dobbiamo fare un paragone con la gita dei presepi, questo diorama di Grest. Sì. Sapete, i diorami, non so, sai cosa sono, Anna? I diorami sono i presepi, non quelli estesi sui stanzoni, ma quelli piccolini che sono dentro una vetrinetta, ma curatissimi e perfetti. Ti chiedo una cosa, Nadia, di questi bambini, è un'occasione il Green invernale per in qualche modo coinvolgerli poi, le famiglie ma anche loro, nelle attività che poi fate durante il periodo invernale, cioè adesso da qui fino a febbraio-marzo, è un'occasione per riprendere le fila di quello che in qualche maniera è stato fatto nel Grest estivo e poi cercare di dire: guarda che l'oratorio di San Liberale o di San Paolo vive ed è attivo anche durante il periodo invernale, non solo per il Grest. Forse può essere anche questo un messaggio. Sì, sicuramente, soprattutto quello che hai detto, cioè agganciare il Green al Grest è stato vincente, ma soprattutto perché con questo abbiamo cercato di far capire alle famiglie che l'oratorio vale, cioè nel senso che vale sempre la pena agganciarsi a questi tipi di realtà. E ci sono mamme e comunque famiglie che l'hanno capito, perché poi ci sono ragazzi che vengono anche alla messa delle famiglie, quindi quella che si fa a San Liberale, e poi sai com'è. Siamo in tanti di tante idee e quindi non sempre tutti recepiscono questi messaggi. Però anche se con questa esperienza riuscissimo a portarne a casa uno o due, sarebbe comunque un successo. Assolutamente sì. Ma Anna, un'altra curiosità da chiederti. Sì, allora come funziona, diciamo, l'attività insieme all'oratorio di San Liberale e San Paolo? Ma diciamo che ormai non dico che siamo in simbiosi, ma quasi, nel senso che i ragazzi sono gli animatori, sono quelli che frequentano i gruppi, e già i gruppi sono di San Paolo e San Liberale, quindi a volte vanno a fare i gruppi a San Paolo, a volte a San Liberale, gli animatori che li seguono lo stesso, quindi diciamo che non c'è più una, come dire, una separazione, è uno, esatto, scambio, è un'unità pastorale proprio, sì, incarnata, vera e propria. E soprattutto i ragazzi questo lo incarnano in maniera splendida, perché per loro non esiste andare alla messa a San Paolo o a San Liberale, cioè è solo una questione logistica. Per loro comunque l'importante è stare insieme. Mi viene voglia di andare a San Liberale e San Paolo. Non so se prima San Liberale o dopo San Paolo, prima San Paolo e poi San Liberale. Nadia, lancerò la monetina. Una domenica verrò a San Liberale, una volta a San Paolo, perché, bravo, da quello che mi racconti vuol dire che avete raggiunto veramente quello che si, in qualche maniera si definisce comunità, famiglia allargata. Siamo sempre in cammino, per carità, ci mancherebbe altro. Però comunque almeno cerchiamo di metterci tutto l'impegno. Ecco, i passi sono giusti. Nadia, ti lasciamo le tue faccende, grazie ancora della tua disponibilità. Grazie, a voi, Nadia. Arrivederci, grazie. E allora, Anna, anche questo, diciamo, è una finestra che abbiamo aperto sul mondo noi, un'attività che alcuni circoli oratori, non soltanto quello di San Liberale e San Paolo, propongono perfino durante le vacanze natalizie, e dedichiamo a tutti gli oratori che fanno il Grest invernale, questa prossima canzone, che è una canzone appunto dell'88, il cantante è Terence Trent D'Arby, che ci canta Sign Your Name. Someone who relies on you. E anche questa settimana abbiamo finito. Sign your name, firma il tuo nome, dai un segno, dai un... E anche noi abbiamo fretta, vero Anna? Perché proprio oggi, fra pochi minuti, saranno qui i nostri ragazzi della CR per iniziare questo progetto. Sì. E quindi dalla prossima ancora settimana, settimana appunto che arriverà, sempre nei contenitori fuori di noi, sentirete anche questo contributo dei ragazzi della CR. Ci racconteranno tante belle cose, vero Anna? Verissimo. E allora dobbiamo sbaraccare, dobbiamo andare via, no? Sì, bisogna allora lasciare spazio a loro. Salutiamo tutti i nostri amici radioascoltatori, la regia di Eddie Dice. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto, sempre al sabato alle ore 14 e la domenica alle 12:30. E allora ciao a tutti. Ciao ciao. Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.